Quinto capitolo. La liturgia come gioco. Certe nature gravi e serie, tutte rivolte alla ricerca e alla contemplazione della verità, che in ogni cosa vedono il compito morale e dovunque cercano il fine, incontrano facilmente nella liturgia una difficoltà singolare. La liturgia appare loro facilmente come qualcosa senza scopo. Un cumulo superfluo di cose, una realtà inutilmente complicata, artificiosa. Costoro si scandalizzano che la liturgia fissi con tanta minuziosità ciò che si deve compiere prima e ciò che deve avvenire dopo, se a destra o a sinistra, ad alta voce o piano. A che scopo tutto ciò? L'essenziale nella Santa Messa, l'offerta e la consumazione del cibo divino, può essere compiuto così semplicemente. Perché tale grande spiegamento di un rituale levitico? Le necessarie consacrazioni potrebbero essere fatte così semplicemente con poche parole, i sacramenti essere amministrati senza complicazioni rituali. A che pro tutte quelle preghiere e cerimonie? La liturgia può avere per costoro un carattere di gioco e di teatralità. Questo problema si deve prendere sul serio. Esso non si presenta a tutti, ma non appena affiora costituisce sempre la rivelazione di un temperamento spirituale inteso all'essenziale. Esso sembra aver stretta relazione con la questione dello scopo in assoluto. Scopo in senso proprio, noi denominiamo quel principio d'ordine per cui cose e azioni si subordinano le une alle altre, in modo che l'una serva all'altra, l'una si presenti in funzione dell'altra. Ciò che è subordinato, il mezzo, ha significato solo in quanto è in grado di servire a ciò che è sovraordinato, allo scopo. Chi agisce non si indugia spiritualmente in esso, giacché per lui costituisce solo un passaggio ad altro, via che conduce allo scopo dove propriamente stanno la meta e il riposo. Da questo punto di vista, ogni mezzo deve saperci assicurare se e in che limiti è in grado di portarci allo scopo. Questo esame ha per intento di escludere tutto ciò che non appartiene alla cosa, ciò che è marginale, superfluo. Domina qui il principio economico di raggiungere il fine nel modo più perfetto possibile col minore impiego di forza, tempo e materia. Il corrispondente stato d'animo è caratterizzato da una certa febbrilità, da una tensione senza riguardo e da una rigida oggettività. Questo atteggiamento spirituale è legittimo e necessario nella totalità della vita. Le assicura serietà e salda direzione. Corrisponde anche alla struttura della realtà nella misura in cui ogni cosa in certo modo cade sotto il punto di vista dello scopo. Molti dati di fatto possono essere giustificati quasi totalmente dal punto di vista dello scopo. Così, ad esempio, la vita economica e i processi della tecnica. Tutti poi possono esserlo almeno in parte e per qualche riguardo. Nessun fenomeno però cade esclusivamente sotto questo concetto. Di molti, anzi, solo una piccola parte. Ovvero, per dir meglio, ciò che assicura alle cose, ai processi, il diritto dell'esistenza e la giustificazione della loro peculiarità è per talune, non solamente per altre, non certo in prima linea, la loro attitudine a uno scopo. Le foglie e i fiori hanno uno scopo, certamente, giacché sono organi delle piante, ma a tale scopo essi non devono assumere proprio quella forma, quel colore, quel profumo determinato. A che scopo, pertanto, la prodigalità di forme, colori, profumi della natura? A che pro la molteplicità delle specie? Le cose potrebbero andare anche con maggiore semplicità. L'intera natura potrebbe essere piena di esseri la cui riproduzione potrebbe essere ottenuta in una maniera assai più rapida e funzionale. L'indiscriminata applicazione del finalismo alla natura non rimane per nulla immune da contestazioni. E per approfondire maggiormente il problema, quale scopo deve avere in genere l'esistenza di questa o quella pianta, di questo o quell'animale? Forse quello di servire da nutrimento ad altri? Certo no. Se noi applichiamo soltanto il criterio dell'esteriore funzionalità, troviamo che molte cose della natura sono funzionanti solo in parte e nessuna è utile in tutto e per tutto. Molte cose, anzi, alla luce di questo criterio, appaiono senza scopo. In una creazione della tecnica, sia una macchina o un ponte, tutto risponde a uno scopo. Altrettanto in un'impresa commerciale, nella burocrazia di uno Stato. Eppure, neanche per queste cose il concetto della finalità basta a risolvere tutti i problemi relativi al loro diritto di esistere. Se, pertanto, vogliamo renderci pieno conto della cosa, dobbiamo assumere un angolo visuale più ampio. Il concetto di scopo pone il centro di gravità di una cosa al di fuori e al di là di essa. Tale concetto la considera quale tramite per un movimento che va oltre e precisamente si dirige alla meta. Ogni cosa, pertanto, è anche, e taluna lo è quasi del tutto, un quid a sé stante, uno scopo a sé, nella misura in cui si può applicare ancora questo concetto in tale più ampia significazione cui si adatta meglio il concetto di senso. Tali cose non hanno scopo nella stretta accezione della parola, hanno però un senso. E questo senso è mostrato non dal fatto che se producono fuori di sé un effetto, ovvero contribuiscono alla costituzione o alla modificazione di qualcosa d'altro, bensì il loro significato consiste nel loro essere quello che sono. Nella rigorosa accezione dei vocaboli, esse sono senza scopo, ma piene di senso. Scopo e senso sono i due modi di presentarsi del fatto che una cosa esistente ha motivo e diritto al proprio essere. Dal punto di vista dello scopo, una cosa si inserisce in un ordine che va oltre di essa. Nei riguardi del senso, essa riposa in se stessa. Qual è ora il senso di ciò che è? D'esistere ed essere un riflesso del Dio infinito. E qual è il senso di ciò che vive? Di vivere, esplicare l'intima essenza propria, di fiorire quale rivelazione naturale del Dio vivente. Questo non vale solo per la natura, ma anche per la vita dello spirito. La scienza ha forse uno scopo nel senso proprio della parola? No. Il pragmatismo vuole attribuirgliene uno, quello di incitare gli uomini a migliorarsi moralmente. Ma questo significa misconoscere la dignità sovrana della conoscenza. Essa non ha alcun scopo, ha però un senso che riposa in se stesso, la verità. L'attività legislativa di un Parlamento, ad esempio, ha uno scopo. Essa intende far valere nella vita statale una direttiva nettamente determinata. La scienza del diritto invece non ne ha, mirando solo a conoscere la verità nelle questioni giuridiche. E così è di ogni autentica scienza, che è in base alla sua essenza conoscenza della verità, servizio della verità. Neppur l'arte ha uno scopo. Si dovrebbe altrimenti pensare che la sua ragion d'essere sia la necessità dell'artista di procurarsi con essa di che nutrirsi e di che vestirsi. Oppure, come pensava l'illuminismo, che l'arte sia destinata a offrire esempi intuitivi della verità di ragione e a insegnare la virtù. L'opera d'arte non ha scopo, bensì ha un senso, e precisamente quello ut sit, d'essere concretamente e che in essa l'essenza delle cose, la vita interiore dell'uomo artista, ottenga un'espressione sincera e pura. L'opera d'arte deve essere soltanto splendor veritatis. Quando la vita si sottrae al rigoroso ordine dei fini, allora diventa un gioco di dilettanti. Muore però anche quando la si vuol costringere nella rigida armatura di una dottrina puramente utilitaria. I due elementi si integrano reciprocamente. Lo scopo è il fine dello sforzo, del lavoro, dell'ordine. Il senso è il contenuto dell'esistenza, della vita che fiorisce e matura. I due poli dell'essere, pertanto, sono scopo e senso, sforzo e crescita, lavoro e produzione, ordinamento e creazione. Anche la vita della Chiesa universale si svolge tra queste due direzioni. Ecco la possente struttura degli scopi nel diritto canonico, nella Costituzione e nell'amministrazione della Chiesa. Qui tutto è mezzo ordinato a un unico scopo, quello di mantenere in efficienza la grande macchina dell'amministrazione ecclesiastica. Decisivo qui è il criterio, se l'istituzione o l'ordinanza considerata risponda alla finalità generale, se essa la raggiunga col minore impegno di forze e tempo. Lo spirito della praticità deve costituire la forza determinante in questa ampia organizzazione del lavoro. La Chiesa però ha pure un altro aspetto. La sua vita abbraccia un campo in cui essa rimane libera dallo scopo nel senso proprio della parola. Questo campo è la liturgia. Anche questa, certo, include un complesso di scopi i quali costituiscono, per così dire, l'armatura che la sostiene. Così i sacramenti hanno il compito di comunicare determinati doni di grazia. Ma questa comunicazione, presupposte le condizioni richieste, può anche aver luogo in forma assai semplificata. L'amministrazione d'urgenza dei sacramenti offre l'esempio di un'azione liturgica rigidamente limitata al suo mero scopo. Si può anche affermare che la liturgia, ogni sua azione e ogni sua preghiera, ha lo scopo di educare religiosamente. E questo è pur vero. Però essa non ha un piano d'educazione preordinato e voluto di proposito. Per comprendere la differenza si confronta il discorso di una settimana dell'anno ecclesiastico con gli esercizi di Sant'Ignazio. In questi ultimi tutto è consapevolmente pesato, tutto organizzato allo scopo di raggiungere un determinato effetto pedagogico sulla vita spirituale. Ogni esercizio, ogni preghiera, anzi le stesse ore di riposo sono indirizzate allo scopo fondamentale di determinare la conversione della volontà. Non così avviene nella liturgia. È già abbastanza significativo che la liturgia non abbia posto alcuno negli esercizi. Anch'essa vuole formare, ma non attraverso un sistema di influssi educativi calcolato appositamente in vista del fine, bensì creando semplicemente una perfetta atmosfera religiosa in cui l'anima si dispieghi religiosamente. Vi è una differenza simile a quella che passa tra una palestra ginnica, dove ogni attrezzo, ogni esercizio è calcolato, e l'aperta campagna o la foresta. Là tutto è sviluppo consapevole delle forze, qui tutto è vita naturale, crescita delle intime energie nella natura e con la natura. La liturgia crea un ampio mondo esuberante di intensa vita spirituale e fa sì che l'anima vi si muova e vi si sviluppi. Questa ricchezza di preghiere, pensieri, azioni, questo intero ordinamento di tempi rimane incomprensibile se lo si commisura all'unità lineare della funzionalità rigorosamente oggettiva. La liturgia non ha scopo, o almeno non può essere ridotta soltanto sotto l'angolo visuale della sola finalità pratica. Essa non è un mezzo impiegato per raggiungere un determinato effetto, bensì, almeno in una certa misura, fine a sé. Essa, secondo le vedute della Chiesa, non è una tappa sulla via che conduce a una meta che sta fuori di essa, bensì un mondo di realtà viventi che riposa in se stesso. Questo è l'importante. Se lo si trascura, ci si sforza di trovare nella liturgia intenti pedagogici d'ogni specie, che possono in qualche modo esservi introdotti, ma che non vi occupano però un posto essenziale.